1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. E oggi torneremo sulle minacce che vengono lanciate anche dai giornali con un'inchiesta della Procura di Roma, le minacce di terrorismo in Italia, un'inchiesta della Procura di Roma su 20 fondamentalisti islamici che sono seguiti. Avremo ospite il professor Vidino. Avremo ospite anche Stefano D'Ambruoso, che da ex magistrato, ora deputato, chiede la nascita di una procura nazionale antiterrorismo. Ne parleremo. Parleremo di questa vicenda ovviamente sull'onda degli attentati di Parigi, ma torneremo anche sulla vicenda dei vitaliziati in Lombardia. Diverse persone, una cinquantina circa, hanno fatto ricorso contro il taglio del 10% dei vitalizi. Queste cose, dicono, non si fanno. Questi diritti acquisiti non si toccano. Vabbè. Alle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. In questo mercoledì 14 gennaio, intanto i titoli che sono dedicati o sull'Europa. Ieri la fine del semestre di presidenza europeo da parte dell'Italia, il Sole 24 Ore apre proprio così: flessibilità, prime aperture dell'Unione Europea. E poi è il gran giorno delle dimissioni di Giorgio Napolitano. Vi ricordo che Radio 24 seguirà con uno speciale questa vicenda, dal momento in cui ci sarà la comunicazione ufficiale delle dimissioni, che dovrebbe arrivare in mattinata. Corriere della Sera: torno a casa, restate uniti. Questa è la frase di Napolitano. Per la stampa: Napolitano contento di tornare a casa. Così questa frase anche sul Messaggero: contento di tornare a casa. Attaccano molto Libero, il giornale. Libero titola così, guardate un po': finalmente se ne va. E il giornale: Napolitano, fine dell'imbroglio, vanno in archivio oggi 9 anni di partigianerie con la ciliegina del governo Monti. Repubblica invece rimane sull'Europa: colpiranno ancora Jihad, 20 indagati in Italia. Dunque l'allarme terrorismo. Il Fatto Quotidiano invece al titolo di prima pagina: Charlie ride con noi. Perché col Fatto Quotidiano oggi trovate in edicola allegato, a 2 euro il prezzo del Fatto oggi, proprio il nuovo numero della rivista Charlie Hebdo. Mentre per Avvenire l'apertura è: lacrime e allarmi a Parigi e Gerusalemme, l'omaggio alle vittime. Questo è il titolo di prima pagina. Voglio partire proprio dal semestre di presidenza europeo che si chiude con le polemiche, intanto per il Parlamento europeo deserto, vuoto. Ieri Matteo Renzi a parlare, c'era anche Beppe Grillo in tribuna e c'era Salvini, eurodeputato, con cui Renzi ha avuto il celebre ormai battibecco dei "voi non leggete più di 2 libri, questo Renzi ai leghisti che lo contestavano. La sfida con Salvini, che poi tra l'altro ha twittato: io sto leggendo 2 libri, uno di questi è Sottomissione di Houellebecq. Peccato che Sottomissione pare che esca domani nelle librerie, quindi poi Salvini ha dovuto anche togliere il tweet del libro che sta leggendo, visto che non è ancora uscito, almeno in italiano. Comunque, al di là di queste quisquiglie, di questi siparietti un po' all'italiana, si discute oggi sui giornali se davvero questo semestre di presidenza europea abbia prodotto qualche risultato abbastanza concreto. Ci sono giornali come Libero, il Giornale, che attaccano e dicono non è servito a nulla. Corriere della Sera, per la verità, con Marco Galluzzo, racconta effettivamente questo, uno dei pochi momenti ieri, cioè il momento di dibattito con Salvini, in cui si impongono all'attenzione le parole di Renzi. Per il resto il bilancio sul semestre di presidenza italiana appena concluso scivola via sul registro della rivendicazione dei risultati ottenuti, l'ammissione che non sono tangibili come molti vorrebbero, forse visibili, ma a chi pretende l'impossibile o a chi critica l'Italia da italiano, come i leghisti, alcuni deputati di Forza Italia, Renzi risponde bollando tutto come piccinerie, anomalie che possono accadere solo con il nostro paese. Dice Renzi: solo a casa nostra le istituzioni internazionali vengono usate come palcoscenico. E poi rivendica: c'è molta più flessibilità che in passato nell'Unione Europea, il concetto non è più considerato una parolaccia, la commissione Barroso è già un lontano ricordo, vengono riconosciute la bontà delle riforme fatte in Italia, il fatto che occorre una valutazione meno ragionieristica di fronte agli sforzi di riforma dei paesi. Queste le rivendicazioni fatte da Renzi, tra le citazioni di Da su Dante, la citazione di Ulisse, era partito nel semestre citando Telemaco, ha concluso citando Ulisse. Chiuso il semestre europeo, sta di fatto che sul Sole 24 Ore è interessante la questione della flessibilità. Conti flessibili per chi è in crisi e fa riforme. Questo è il senso della partita con l'Europa che ora si apre in chiusura del semestre europeo. La Commissione europea, fa sapere Beda Romano, ha presentato ieri le nuove linee guida da utilizzare nell'applicazione del patto di stabilità. Nuove regole valide comunque per chi si mantiene sempre sotto il limite del 3% del deficit, del rapporto deficit-PIL, parametri da rispettare. Nuove regole che prevedono ora conti più flessibili in una situazione che deve essere caratterizzata da riforme, però volte a rilanciare la crescita. Beda Romano racconta quali sono queste nuove regole. Ripeto, maggiore flessibilità, ma il vincolo del rispetto del 3% dei parametri di Maastricht, e questa è l'aspetto fondamentale da mantenere per avere una maggiore flessibilità da parte dell'Europa. Comunque la partita con l'Europa ovviamente continua, e il dibattito su a cosa sia servito e quanto sia servito questa presidenza europea da parte dell'Italia continua anche sui giornali. A proposito di parlamentari europei, brutta avventura per Alessandra Moretti, come racconta il Corriere della Sera, pagina 11. Insultata al bar e in rete. Lunedì mattina, pasticceria nel centro di Vicenza. Alessandra Moretti entra e un uomo sui 45 anni inizia a inveire. Voi politici fate schifo, andate a lavorare. L'uomo viene anche identificato, è un attivista del Movimento 5 Stelle, si chiama Paolo Forza, e prima di Natale, nella stessa pasticceria, era stato protagonista della medesima scena, al che Alessandra Moretti, alla seconda scena, dice: lo denuncio. Lo denuncia, si presenta coi carabinieri, l'uomo viene identificato e dice: sì, sono stato io, e non arretro di un passo. Alessandra Moretti doveva essere a lavorare all'Europarlamento, invece era al bar a comprare le frittelle. Prende 20.000 euro al mese, noi la paghiamo e io ho solo agito da cittadino qualunque. Spero che mi denunci, così la gente saprà che perde tempo invece di lavorare. E Moretti l'ha infatti querelato con questa spiegazione, soprattutto perché all'episodio erano presenti i bambini. Vabbè, questo succede per l'europarlamentare Alessandra Moretti. Ci sono due notizie che mi hanno colpito. La prima riguarda la sanità e la seconda il mondo della giustizia. La sanità: attenzione cari cittadini che avete più di 65 anni, le regioni hanno fatto una proposta di ripristinare il ticket, e quindi togliere l'esenzione dal ticket, anche per coloro che hanno più di 65 anni. Stoppa l'esenzione automatica per gli anziani con un reddito sotto i 36.152 euro e che hanno più di 65 anni. La proposta è arrivata da Luca Coletto, che è il coordinatore degli assessori regionali alla sanità, quindi da tutte le regioni di fatto, e ha provocato immediate reazioni, come racconta il Messaggero a pagina 15, visto che il tema, oltre a essere di per sé sensibile, riguarda 12 milioni di persone. La logica di questo riassetto è chiara: la condizione di anziano non è di per sé sinonimo di uno stato di bisogno tale da meritare un'agevolazione automatica, tanto più se associata a un indicatore di reddito non alto, ma nemmeno particolarmente severo. Questi cittadini attualmente non pagano la compartecipazione per la prestazione specialistica e in alcune regioni nemmeno quella eventualmente prevista per i farmaci. In futuro, se la proposta sarà accolta, saranno invece chiamati a contribuire. Quindi lo Stato italiano cerca soldi e cerca soldi tenendo conto del fatto che l'aspettativa di vita è aumentata, ora a 65 anni non si è più anziani in molte occasioni, nella media ovviamente rispetto a quanto lo si era prima, si vuole mettere una fine all'esenzione automatica dal ticket per gli ultra 65 anni sotto un certo reddito. Cari italiani, attenzione, cari 12 milioni di italiani che secondo il Messaggero siete in questa fascia e non pagate, occhio, vi vogliono far pagare il ticket. L'altra notizia che mi ha molto colpito è questa ed è il premio Mani sul volante, l'articolo che mi fa più incazzare di questa giornata sulla Stampa, pagina 13, Francesco Grignetti racconta quanto ci costano gli errori nella giustizia. Ne abbiamo parlato di recente con il vice ministro Costa, che aveva preannunciato un calcolo di quanto ci costano gli errori, soprattutto le ingiuste detenzioni. La cifra è questa: 35 milioni di euro l'anno. L'anno scorso 1000 persone innocenti, risultate poi innocenti, sono state arrestate. In aumento vertiginoso anche i risarcimenti per sentenze sbagliate. Si prenda il caso delle ingiuste detenzioni, scrive la Stampa. Cittadini portati ingiustamente in carcere in custodia cautelare dopo essere stati assolti o addirittura prosciolti. Ebbene, nel 2014 sono state accolte dai giudici delle corti d'appello 995 domande e liquidati come risarcimenti 35 milioni e 200 mila euro. 35 milioni e 200 mila euro di risarcimenti per ingiusta detenzione. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! This is George Clooney, and I also like listening to 24 Mattino. Hi George, ora parliamo di un altro George, non so se è un po' più importante, secondo i giornali italiani certamente è più importante, George Napolitano, che oggi si dimette, è ufficiale ormai, ieri lo ha detto, io vado via, ho chiuso, ha parlato anche con un bambino, ha parlato anche con questa frase, sono contento di lasciare, ha detto a un bambino. Insomma, sono contento di tornare a casa, il Quirinale era anche un po' come una grande prigione, per carità. Aggiungo io, prigione dorata, immagino, le prigioni sono altre, ma in ogni caso Giorgio Napolitano oggi si dimette, allora eccolo qui, io ve l'avevo preannunciato qualche giorno fa dai giornali, sappiate che tutta la vicenda di Parigi, che peraltro oggi comunque ha una buona parte, occupa una buona parte dei giornali, verrà spazzata via dal profluvio di retroscena che ci ritroveremo a partire da mercoledì, e infatti siamo a mercoledì ed eccolo qui, paginate e paginate per raccontare quello che succederà, le grandi manovre che ci porteranno al 29 gennaio, prima elezione in seduta plenaria del Parlamento per eleggere il successore di Napolitano. I retroscena più interessanti, quelli coi nomi. Francesco Bei su Repubblica, pagina 2, racconta che Renzi e Berlusconi si sono visti in gran segreto. L'incontro, per la verità, risale a un mese fa, 19 dicembre. Renzi è riuscito a vedere nel segreto più assoluto l'uomo a cui si affida per colmare gli eventuali buchi che i franchi tiratori dovessero aprire nelle sue file. Quest'uomo è Silvio Berlusconi. Racconta Repubblica che in questo incontro molto misterioso, definito così misterioso, lontano da Roma e da occhi indiscreti, Renzi ha fatto a Berlusconi un quadrifoglio di nomi da sottoporre al Quirinale. Veltroni, Mattarella, Castagnetti, Anna Finocchiaro. Tre uomini e una donna. E questi sarebbero i nomi da cui si parte. Il nome di Veltroni c'è da dire che spunta un po' ovunque. Guardate per esempio Francesco Verderami sul Corriere della Sera, pagina 5, terna di nomi. I nomi qui scendono a tre e sono Mattarella, Gentiloni e Fassino. Ma cresce l'ipotesi Veltroni. Fassino, secondo Francesco Verderami, ha mandato delle sorte di ambasciatori addirittura da Berlusconi per far sapere che quando lui era ministro della giustizia non ebbe mai alcun atto ostile contro di lui. Mentre Berlusconi dice... si affida a Verdini, l'uomo di collegamento tra lui e Renzi, anche se secondo Repubblica addirittura si sarebbe incontrato con lo stesso Renzi lo scorso 19 dicembre a Quattr'Occhi. Mentre Berlusconi rilancia e dice, beh, un nome ci sarebbe, questo secondo sempre Francesco Verderami, e il nome ce l'avrei, l'unico ad avere il profilo dell'uomo di Stato, D'Alema, ma purtroppo. E quel purtroppo vuol dire purtroppo Renzi, D'Alema proprio non lo può vedere. E quindi e poi c'è Prodi, perfino Prodi manda a dire in qualche modo a Berlusconi che potrebbe essere disponibile. E sul fronte Prodi Berlusconi è un po' incerto. Certo, è chiaro che Berlusconi non ha mai visto con grande simpatia Prodi. Di certo, scrive il Corriere, non vedrà di simpatia Grasso. Berlusconi avrebbe detto un altro magistrato, anche lì un altro magistrato sarebbe veramente troppo. Però Prodi, il nome di Prodi rispunta anche qua e là. Lo fa anche Umberto Bossi intervistato da Repubblica. Sentite un po' cosa dice a pagina 6, testuale: in spregio alla sintassi italiana, Prodi, se Renzi mette Prodi, gli italiani lo sparano. Questo intervistato da Tommaso Ciriaco, Umberto Bossi, della Lega Nord, fondatore della Lega Nord. Renzi non può spaccare il partito, nominerà certo un altro comunista, ma non Prodi, gli italiani lo sparano. Che poi non si capisce, sparano Prodi o sparano Renzi che lo fa? Boh. È possibile che Berlusconi a sorpresa sostenga Prodi? Chiedono a Umberto Bossi. Spero di no. C'è però chi ipotizza che all'ex cavaliere interessi solo eleggere un presidente che possa garantirgli la candidabilità o addirittura la grazia. Bossi sorride ammiccante e risponde al cronista: tu lo dici. E poi fa il nome di una donna. Perché no? Mi piacerebbe Anna Finocchiaro, una abbastanza brava, mi dicono. Così Umberto Bossi. La verità è che secondo tutti retroscena, ma da qui al 29 ne vedremo di altri, di diversi, l'identikit cui punta Matteo Renzi è quello di un presidente saggio, non arbitro, ma giocatore. E a proposito di arbitro, quindi diciamo, ecco, è un po' più brutale il giornale, il prossimo capo dello Stato, cattolico, democrat e scialbo, cioè scialbo, uno che non oscuri la figura di Matteo Renzi. Nell'elenco delle pagine che trovate, decine e decine, c'è anche spazio a pagina 9 del Corriere della Sera per un'intera pagina su dei disegni, i disegni del Quirinale. Una pagina intera, il Quirinale disegnato. Ecco le stanze del palazzo: il salone delle feste, il salone dei corazzieri, la sala d'Ercole, la sala degli ambasciatori, la galleria dei busti, il piano nobile, lo studio alla vetrata, la sala degli scrigni, la sala gialla e così via. E non è però questa la carta costa di oggi, lo so che subito avete in mente questa cosa. Non ha vinto per un cicinin, come avrebbe detto mia nonna, per un cicinin. È un'altra la carta costa, la scopriremo un pochino più avanti. Comunque l'identikit è quello di un arbitro e di un saggio, ma non uno che è attore protagonista. Questo dovrebbe essere il profilo della prossima figura istituzionale, il capo dello Stato. Sta di fatto che invece Giorgio Napolitano è e continua a essere arbitro protagonista. Perché? Perché da senatore a vita, quale diventerà, come dice la Costituzione, da ex Presidente della Repubblica, potrebbe votare già domani l'Italicum, la legge elettorale si discute, perché da domani, da oggi, quando si dimetterà, diventa automaticamente senatore a vita e quindi continuerà a dire la sua e a votare per le riforme. Voterà ovviamente anche il suo successore, Giorgio Napolitano. Mi incuriosisce una cosa, il nostro Mauro Meazza è in età quirinabile? Buongiorno Alessandro, sì. Grazie della domanda, ma anche della candidatura. No, per la verità non ti ho candidato, era una curiosità, però se qualcuno volesse che mai... Fai rose di nomi, quindi perché no, insomma, vabbè. Sono a disposizione, ecco, ho trovato una frase che mi sembra che possa funzionare. Sono a disposizione, così come oggi è a disposizione, caro Alessandro, in edicola un supplemento del Sole 24 Ore dedicato alle pensioni, non è fantascienza, 16 pagine per spiegare le novità di quest'anno e degli anni prossimi, anche con le novità fiscali che riguardano non solo le pensioni di base, ma attenzione, anche quelle dei fondi pensione, la previdenza cosiddetta integrativa. Okay. Quindi fai buona lettura e medita, caro Alessandro, anche perché medita sui tuoi due urini, guarda che l'accordo con la Svizzera è vicino, cerca di ricordarti dove li hai messi, che potrebbe essere importante. Tra l'altro, guarda che sembra che vogliono semplificare il modulo RW, che tu, che certo per te è negletto, ma in realtà serve a dichiarare quello che uno ha lasciato fuori dai confini nazionali. Mi immagino che tu questi due urini insomma non li abbia dichiarati. Però oggi è una bella giornata, perché ieri sono ricomparse delle carte abbastanza importanti. Allora, i decreti sul Jobs Act, sai che i decreti attuativi se ne è parlato, però poi non arriva, ecco, sono riapparsi, siamo tutti aspetta, adesso bisogna che li valutino in commissione e poi dopo daremo corso finalmente al Jobs Act con le prime attuazioni. E poi sono ricomparsi, udite, i decreti sul catasto, sulle commissioni censuarie. Le commissioni saranno di più, ma il decreto è uno. E era un paio di mesi che non avevamo sue notizie, infatti diversi si chiedevano, anche il nostro collega Saverio Fossaggi si chiedeva, ma questo decreto sul catasto, di grazia. Ecco, di grazia è ricomparso, finalmente ha preso forma ed è arrivato su un giornale che tu non citi mai, ma che invece è importante, che è la Gazzetta Ufficiale. E su questo quotidiano abbiamo finalmente preso visione. Leggo altre gazzette. Lo so, però in questo periodo, ma vedi tu, ecco, ma anche se ieri mi pare hai visto che è incredibile, poi il campionato è sospeso ma c'è la Coppa Italia, La Coppa Italia, tu segui molto la Coppa Italia in questo momento, secondo me, perché visto che l'altro non c'è, seguo quello che ti appassioni meno al campionato, ho capito. No, ho visto che ieri c'è stato un sussulto importante, quindi bene, insomma, bene, sono contento che tu sia contento. Bene, questa comunicazione la daremo subito al presidente Squinzi, che tu sei contento che il Sassuolo abbia perso. Molto bene. Vabbè, ma mi dicono che sia milanista, quindi dovrebbe essere contento uguale anche lui. A metà, va bene. Senti, dico invece, non siamo contenti di leggere Fabio Pavesi stamattina con un'inchiesta sulla credit crunch, cioè sulla riduzione dei prestiti concessi dalle banche dal 2009 a oggi, perché appunto, come riferite Pavesi, via via che abbiamo chiesto più solidità alle banche, loro hanno poi tagliato anche gli impieghi però, e hanno sforbiciato, se leggo sul Sole 24 Ore, per 180 miliardi. Quindi ci sono stati 180 miliardi di finanziamenti in meno, non è una buona notizia, ma tutti i particolari nelle pagine di Norme. No. Se ti sto parlando di banche, ti sto parlando di finanza, attenzione, non sei attento, stai già cercando il decreto sul catasto, lo so, stai compulsando il decreto sul catasto. Va bene, aspettando la flessibilità sui nostri conti, di cui scriviamo oggi con grande evidenza nelle primissime sole 24 ore. Io a questo punto, guarda, ti vorrei solo segnalare questo mini rimbalzino della produzione industriale che spieghiamo appunto per novembre, più 0,3%, ma non avrei altro da dire, restiamo così. Se vuoi capire meglio questo dato, leggi Luca Orlando oggi su Imprese e Territori. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico. Alessandro Milan, il giornalista più titolato del mondo. Oh, finalmente, finalmente. Siamo nei quarti di finale di Champions League e quindi da ieri e quindi bene, bene. Allora, venendo alla questione Parigi e il dopo Parigi, la notizia che più campeggia sulle prime pagine dei giornali italiani è questa. Ci sono 20 indagati a Roma, 20 indagati jihadisti. Sono considerati 5.000 i combattenti europei in generale, ma soprattutto la Procura di Roma si concentra su questi 20. Che, come scrive Fiorenza Sarzanini a pagina 16 del Corriere della Sera, dialogano via internet, parlano di onorare il jihad, dicono che bisogna colpire presto, sono sotto controllo da mesi, non sembrano avere capacità operative immediate, però fanno paura perché quanto accaduto a Parigi potrebbe averli esaltati, convincendoli ad emulare le stragi compiute nella capitale francese dai fratelli Kouachi e da Amedi Coulibaly. Si concentra così su un gruppo di stranieri residenti in Italia collegati con fondamentalisti che si trovano in Europa, l'indagine dei carabinieri del ROS coordinata dai pubblici ministeri di Roma. In tutto sono una ventina di persone che si muovono tra il nostro paese e l'estero con basi nella capitale, ma anche in Lombardia e Veneto, dove altre indagini collegate sono in corso. È la storia dei cosiddetti lupi solitari. E certamente colpiscono e fa specie proprio nel giorno in cui esce il nuovo numero di Charlie Hebdo, che è in allegato al Fatto Quotidiano. Se volete però, le vignette sono riprodotte anche sul giornale. Questi sono i due quotidiani italiani che in qualche modo rilanciano il Fatto Quotidiano proprio in allegato alla nuova rivista Charlie Hebdo, che ha messo in prima pagina nuovamente Maometto. E questa cosa, al di là delle condanne, al di là dei falsi, evidentemente falsi, proclami dell'indomani di solidarietà, di cordoglio, eccolo qui subito come si cambia. Appena uscita la notizia di Charlie Hebdo, che mette in prima pagina Maometto che piange, dall'Egitto le minacce. Intanto le minacce del Gran Mufti egiziano, come racconta sia Il Giorno sia Libero a pagina 2, il Gran Mufti egiziano Shaki Allam, una delle voci musulmane più ascoltate del mondo. Questa edizione di Charlie Hebdo, ha detto, causerà una nuova ondata di odio in Francia e nella società occidentale in generale. E ciò che la rivista sta facendo non aiuta la coesistenza e il dialogo tra le civiltà. Questa è una provocazione ingiustificata contro i sentimenti dei musulmani del mondo. Come scrive Libero, eccolo qui il moderato che qualche giorno fa aveva rimediato la figura del dialogante definendo gli attentatori di Parigi dei terroristi. Terroristi, però appena a Charlie Hebdo hanno fatto quello che stanno facendo da anni, c'è una satira anche graffiante, magari una satira che non piace, può anche fare schifo questo tipo di satira, però una satira libera, eccolo qui, questo numero causerà una nuova ondata di odio. Ah, che bella dichiarazione, secondo Il Giorno è una fatwa in bello stile su Charlie Hebdo. C'è un altro giornale che è Le Canard Enchaîné, che ha ricevuto, è un altro giornale satirico, che a Parigi ha ricevuto email di minacce. Ora toccherà a voi. In tutto questo, l'autore e lo scrittore francese più attenzionato in questo momento, Michel Houellebecq, che ha scritto appunto questo libro sotto missione, questo romanzo che esce domani, credo, in Italia, oggi fa un'intervista di due pagine al Corriere della Sera, intervistato da Stefano Montefiori, racconta del suo 7 gennaio vissuto con grande terrore quando ha saputo dell'attacco. Ho chiamato il mio amico Bernard, era l'economista Bernard Marie che era rimasto vittima a Charlie Hebdo. E ora, dice Houellebecq, certo non sarà più niente come prima, ora è più dura. Per esempio, è difficile che un disegnatore che cominci adesso disegni in libertà. E ma come, chiede il Corriere, Charlie Hebdo ricomincia con un nuovo numero con in copertina Maometto. È certo, adesso non c'è problema, risponde Houellebecq. Faranno lo stesso tutti i disegnatori di Francia, anzi tutti i disegnatori del mondo. Dopo non so. Comunque questa copertina è quel che bisogna fare, è la scelta giusta. Charlie Hebdo ha sotto la testata la scritta giornale irresponsabile. È questo il loro motto ed è giusto che restino fedeli alla loro linea. Io non avevo per niente paura mentre scrivevo il mio romanzo. Quando si scrive non si pensa affatto come verranno accolte le proprie parole. Scrittura e pubblicazione sono due fasi separate. È adesso che uno capisce i rischi. Così Houellebecq, intervistato dal Corriere della Sera, lo ammetto, adesso ho paura anch'io. Devo essere irresponsabile per continuare a scrivere. L'uomo non ne può più della sua libertà. Intanto il ministro della difesa Pinotti, intervistata dal Messaggero, dice: più soldati in strada, allerta per scuole, allerta per gli aeroporti, aumenta la sorveglianza. Un'intervista che il ministro della difesa rilascia al Messaggero e la trovate a pagina 13. Su questa vicenda, come dire, le falle dell'intelligence poi sono clamorose. Volete sapere l'ultima che ho letto su Repubblica? Marco Mensurati ne scrive a pagina 12. Coulibaly, quello che ha preso in ostaggio, ha ucciso varie persone al supermercato ebraico, Coulibaly il 4 dicembre scorso ha chiesto 6.000 euro di finanziamento alla Cofidis, un'agenzia francese specializzata nel credito a distanza, e li ha ottenuti, glieli hanno dati sull'unghia. In pratica, è brutto dirlo, gli abbiamo finanziato noi occidentali un po' del suo attentato. Vabbè, c'è anche molto del commento di quel video orrendo, orribile, di un bambino dell'ISIS che uccide, giustiziando della testa, due spie russe in Siria. Purtroppo però c'è poco tempo, devo andare alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Giacomo Amadori oggi su Libero stravince, perché racconta come i vicini di Napolitano attendono il suo ritorno. E soprattutto è disperata Rita Brunschwiller, zurighese, che abita al piano sotto di Vicolo dei Serpenti, dell'abitazione dove torneranno a vivere i Napolitano. Soprattutto è disperata per la presenza di Clio, con la quale convivo da 34 anni e dico no comment. Un giorno le racconterò questa condomina. Mi ammazza se lo racconto ora. Si lamenta perché stendevo i panni, si lamenta per il rumore dei bambini. Clio Napolitano, condomina imperfetta per Libero. Ma chi se ne frega!